Dove si rifugia il contadino rovinato dall'Unione? Segue col suo bastone di pellegrino le ferrovie e il centro granario. Il paradiso dei cereali si sposta verso il Canada. Negli ultimi anni il Canada è apparso sul mercato mondiale come uno dei paesi esportatori di cereali, ma la sua agricoltura è ancora più dominata dal grande capitale. L'accaparramento dei terreni pubblici ad opera di società private capitalistiche fu condotto qui a fondo ancor più spregiudicatamente che negli Stati Uniti. L'opera della Compagnia Ferroviaria Canadese del Pacifico è stata di fatto di rapina di terre demaniali da parte del capitale privato, senza precedenti. La società si era assicurata non soltanto il monopolio ventennale della costruzione di tronchi ferroviari, non solo le era stato concesso gratis il territorio sul quale costruire la ferrovia, non soltanto lo Stato si era assunto per 10 anni la garanzia di un interesse sul capitale azionario e aveva anticipato 27 milioni e mezzo di dollari in contanti, ma la società ricevette in dono un territorio di 25 milioni di acri, a scelta fra le terre più fertili e meglio esposte anche al di fuori della fascia parallela al tronco ferroviario. Così tutti i futuri coloni della gigantesca pianura dipendevano dal beneplacito dei capitalisti della compagnia, la quale, per trasformarla il più presto possibile in denaro, ne cedette 5 milioni di acri a una società mista di capitalisti inglesi presieduta dal Duca di Manchester. I due gruppi capitalistici hanno ricevuto insieme i 5 noni della terra colonizzabile. Una buona parte della rimanente è stata ceduta dallo Stato a 26 società di colonizzazione capitalistiche, per cui il farmer canadese si trova stretto quasi da tutti i lati nella rete del capitale e della sua speculazione. Ciò non impedisce l'immigrazione di massa non solo dall'Europa, ma dagli Stati Uniti. Questo è il volto del dominio capitalistico sul mondo. Caccia il contadino inglese, strappato al suo podere negli stati dell'East, di qui nel West, per rifarne sulle macerie dell'economia indiana un piccolo produttore di merci, di qui nuovamente dissestato nel Nord, la ferrovia davanti e la rovina dietro, cioè il capitale come battistrada e il capitale come pugnale alle spalle. Lo stesso processo in un ambiente storico completamente diverso, il Sudafrica, illustra in modo ancora più chiaro i metodi cosiddetti pacifici della lotta fra capitale e piccolo produttore di merci. Fin verso il 1860 regnavano nella colonia del Capo e nelle repubbliche boere rapporti schiettamente contadini. A lungo i boeri condussero una vita da allevatori nomadi, sottraendo a ottentotti e cafri i migliori pascoli e sterminandoli o cacciandoli dalle loro terre. Nel secolo XVIII la peste portata dalle navi della Compagnia delle Indie Orientali rese loro preziosi servigi, mietendo ripetutamente intere tribù ottentotte e facendo così posto agli immigranti olandesi. Nel loro dilagare verso est, questi si scontrarono con le tribù Bantù, inaugurando il lungo periodo delle terribili guerre dei Cafri. I pii olandesi, attaccati alla Bibbia, coi loro costumi puritani e con la loro conoscenza dell'Antico Testamento, non si limitarono, da buon popolo eletto, a rubare terra agli indigeni, ma edificarono le loro aziende contadine sulle spalle dei neri, da loro costretti al lavoro servile e a tal fine sistematicamente e coscientemente corrotti e smidollati. L'acquavite ebbe in quest'opera un posto così decisivo che il suo divieto da parte del governo inglese naufragò contro la resistenza dei puritani. In genere, l'economia boera rimase, fin verso il 1860, prevalentemente patriarcale e naturale. La prima ferrovia del Sudafrica risale al 1859. Non che il carattere patriarcale dell'economia impedisse la durezza e violenza dei metodi di dominio. Come noto, Livingstone ebbe molto più a dolersi dei boeri che dei cafri. Per loro, i neri erano oggetti così espressamente designati da Dio e dalla natura a servirli, una base così indispensabile per la loro attività agricola, che risposero col grande trek alla soppressione della schiavitù nelle colonie inglesi. Nonostante l'indennizzo concesso ai proprietari nella misura di 3 milioni di sterline, i boeri, cioè, emigrarono dalla colonia del Capo verso l'Orange e il Vaal e oltre, cacciarono i Matabele di là dall'Impopo e aizzarono contro di essi i Makalaka. Come il farmer americano, sotto i colpi dell'economia capitalistica, spinse l'indiano verso l'West, così il boero spinse verso nord il nero. Le libere repubbliche fra l'Orange e l'Impopo sorsero dunque come protesta contro l'attentato della borghesia inglese al diritto sacro della schiavitù. I minuscoli stati contadini erano in continua guerriglia con i negri bantù e sulle spalle dei neri si svolse la decennale lotta fra i boeri e il governo inglese. Servì di pretesto al conflitto la cosiddetta questione nera, cioè la presunta volontà della borghesia britannica di emancipare le popolazioni di colore. In realtà, quella che si svolse fu una lotta di concorrenza fra economia contadina e politica coloniale del grande capitalismo, intorno a Cafri e Ottentotti, cioè alla loro terra e alla loro forza lavoro. Identico lo scopo dei due concorrenti: sottomissione, espulsione o dispersione dei neri, distruzione della loro organizzazione sociale, appropriazione delle loro terre, sfruttamento del loro lavoro. Solo i metodi si distinguevano. I boeri rappresentavano il piccolo schiavismo tradizionale come base di un'economia contadina patriarcale. La borghesia inglese, il moderno sfruttamento capitalistico in grande stile della terra e dell'uomo. La legge fondamentale della Repubblica del Transvaal proclamava con inintelligente rudezza: il popolo non tollera alcuna uguaglianza fra bianchi e neri, né nello Stato né nella Chiesa. Nell'Orange e nel Transvaal i neri non potevano possedere terre, viaggiare senza passaporto, farsi vedere per le strade dopo il tramonto. Bryce racconta il caso di un contadino della zona orientale della colonia, un inglese, che, processato per aver ucciso a colpi di frusta il suo cafro e assolto, venne dai vicini accompagnato a casa con la musica. Spesso i bianchi si sottraevano al pagamento del salario ai neri nati liberi, costringendoli alla fuga a furia di maltrattamenti. Il governo inglese seguì la tattica opposta, presentandosi a lungo come protettore degli indigeni, adulandone i capi, rafforzandone l'autorità, cercando di investirli del diritto di disporre delle terre. Anzi, nei limiti del possibile, trasformò i capi tribù, secondo un metodo sancito dall'esperienza, in proprietari del suolo comune. Ciò urtava in pieno con la tradizione e coi rapporti sociali dei neri, giacché la terra era possesso collettivo delle tribù indigene. E perfino i capi più crudeli e dispotici avevano soltanto il diritto e il dovere di assegnare ad ogni famiglia un appezzamento, che però rimaneva in suo possesso solo finché effettivamente coltivato. L'obiettivo finale della politica inglese era chiaro: preparare di lunga mano la spoliazione in grande stile del suolo, facendo dei capi tribù i propri strumenti. Frattanto si limitava alla pacificazione dei neri mediante grandi operazioni militari. 9 sanguinose guerre contro i Cafri si succedettero fino al 1879 nell'intento di spezzare la resistenza dei Bantù. Il capitale inglese svelò apertamente e con energia i suoi propositi solo quando due avvenimenti decisivi, la scoperta del campo diamantifero di Kimberley e quella delle miniere d'oro del Transvaal, aprirono una nuova era nella storia del Sudafrica. La Compagnia Britannica del Sudafrica, cioè Cecil Rhodes, entrò in azione e nell'opinione pubblica inglese si compì una subitanea svolta. La brama dei tesori sudafricani spinse il governo a provvedimenti radicali. Nessun sacrificio di denaro e di sangue parve troppo grave alla borghesia britannica pur di impadronirsi delle terre. Un flusso poderoso di immigranti si rovesciò sulla colonia. L'immigrazione, rimasta fino allora modesta per l'attrazione prevalente che esercitava l'America, crebbe a sbalzi. Dal 1885 al 1895, 100.000 inglesi si stabilirono in Africa del Sud. La piccola economia contadina passò in secondo piano. Balzò in prima fila l'attività estrattiva a base capitalistica. Fu allora che la politica inglese cambiò bruscamente faccia. Verso la metà del secolo l'Inghilterra aveva riconosciuto le repubbliche boere. Ora cominciò un accerchiamento politico degli stati contadini mediante occupazione di tutti i territori circostanti, al fine di impedirne ogni eventuale allargamento e contemporaneamente assorbimento dei neri a lungo protetti e favoriti. Il capitale inglese avanzava un colpo dopo l'altro. I popoli dei Matabele e dei Mashona si buttarono in una disperata lotta di difesa, ma la compagnia, con Cecil Rhodes in testa, soffocò nel sangue la rivolta, per poi impiegare il mezzo brevettato di civilizzazione e pacificazione degli indigeni, cioè la costruzione di due grandi ferrovie nel territorio dei rivoltosi. Così accerchiate, le repubbliche boere ebbero vita sempre più difficile. Ma anche all'interno le tradizionali basi della loro vita vacillavano. Il potente flusso dell'immigrazione e le ondate della nuova e febbrile economia capitalistica minacciavano di far saltare le barriere dei piccoli stati contadini. In realtà, il contrasto fra l'economia contadina nei campi come nello Stato e le esigenze e i bisogni dell'accumulazione del capitale era sempre più stridente. Un passo dopo l'altro, le repubbliche cedevano di fronte ai nuovi compiti. Insufficienza e primitività dell'amministrazione, costante minaccia dei cafri, corruzione insinuatasi nello stesso Volksraad a profitto del grande capitalismo, incapacità della polizia a mantenere in sesto la barcollante società dei Cavalieri di Ventura, deficienza d'acqua e di mezzi di trasporto per l'approvvigionamento di una colonia improvvisamente formatasi di 100.000 emigranti, mancanza di una legislazione del lavoro che regolasse lo sfruttamento dei neri nelle miniere, alti dazi protettivi, alti noli per il carbone, tutto concorreva a precipitare in una spaventosa bancarotta le repubbliche boere. Se negli Stati Uniti la guerra fu il punto di arrivo della trasformazione economica e sociale, nel Sudafrica fu il suo punto di partenza. Ma il risultato fu identico, vittoria del capitale sulla piccola economia agraria, a sua volta nata sulle macerie dell'organizzazione economica primitiva e naturale. La resistenza delle repubbliche boere all'Inghilterra fu disperata come la resistenza dei farmers americani al dominio capitalistico negli Stati Uniti. Nella nuova Unione Sudafricana, che realizzando il programma imperialistico di Cecil Rhodes sostituì alle piccole repubbliche contadine un grande Stato moderno, il capitale doveva prendere ufficialmente il potere. L'antico contrasto fra inglesi e olandesi si è dissolto nel nuovo contrasto fra capitale e lavoro. Nell'unione nata dalla guerra, i due popoli hanno suggellato un commovente fraterno accordo nella privazione dei diritti civili e politici di 5 milioni di lavoratori di colore ad opera di 1 milione di sfruttatori bianchi. Dalla tragica vicenda sono usciti a mani vuote non soltanto i neri delle repubbliche boere, ma hanno perso in parte i loro diritti anche i neri della colonia del Capo, che già avevano ricevuto dal governo inglese l'uguaglianza politica. Questa nobile opera, che ha coronato con un vergognoso colpo di forza la politica dei conservatori, doveva essere portata a termine proprio dal Partito Liberale, nella piena autonomia amministrativa e nella libertà donate dall'Inghilterra a un pugno di bianchi del Sudafrica, la prova della potenza creatrice e della grandezza ancora viva del liberalismo inglese. La rovina dell'artigianato indipendente ad opera della concorrenza del capitale forma un capitolo a sé, meno rumoroso, ma non meno straziante. L'industria domestica capitalistica è, in questo capitolo, l'episodio più cupo. Risultato generale della lotta fra capitalismo ed economia mercantile semplice è che il capitale subentra all'economia mercantile semplice, dopo di aver collocato questa al posto dell'economia naturale. Capitolo trentesimo. I prestiti internazionali. La fase imperialistica dell'accumulazione del capitale, o la fase della concorrenza internazionale fra i capitali, abbraccia anche l'industrializzazione ed emancipazione, in senso capitalistico, delle precedenti zone di investimento del capitale, in cui la realizzazione del suo plusvalore si compiva. I metodi specifici di lotta di questa fase sono prestiti esteri, costruzione di ferrovie, rivoluzioni e guerre. Il decennio 1900-1910 è particolarmente caratteristico del moto imperialistico mondiale del capitale, soprattutto in Asia e nelle regioni europee che con essa confinano: Russia, Persia, India, Giappone, oltre che nell'Africa del Nord. Come l'espansione della produzione mercantile semplice al posto della naturale e della produzione capitalistica al posto della mercantile sia compiuta attraverso guerre, crisi sociali e annientamento di intere forme sociali, così oggi la trasformazione in senso capitalistico delle colonie e dei paesi economicamente arretrati si svolge fra rivoluzioni e guerre. Nel processo di emancipazione capitalistica dei paesi arretrati, la rivoluzione è necessaria per far saltare le forme statali ereditarie dai tempi dell'economia naturale e della produzione mercantile semplice, e perciò antistoriche, e creare un apparato statale modellato sulle esigenze della produzione capitalistica. Rientrano in questo capitolo le rivoluzioni russa, turca e cinese. Che queste rivoluzioni, soprattutto la russa e la cinese, accolgano, insieme con le esigenze politiche dirette della dominazione del capitale, ogni sorta di vecchi residui precapitalistici e accanto a questi portino in luce nuovi contrasti, nuove resistenze all'impero della produzione capitalistica, corrodendola in superficie, è un fatto che, se condiziona la loro profondità e potenza d'urto, ne rende però più difficile e faticoso il trionfo. Quanto alla guerra, essa è abitualmente l'arma caratteristica di un giovane stato capitalistico per infrangere la tutela dei vecchi, la prova e il battesimo del fuoco della raggiunta maturità capitalistica di uno stato moderno. La riforma dell'ordinamento militare e finanziario appare dovunque la promessa dell'autonomia economica. Lo sviluppo della rete ferroviaria rispecchia quasi perfettamente la penetrazione del capitale nel mondo. Esso è stato soprattutto rapido nel quinto decennio dell'Ottocento in Europa, nel sesto in America, nel settimo in Asia, nell'ottavo e nono in Australia e nell'ultimo in Africa. Nel periodo imperialista, il prestito estero ha una funzione preminente come mezzo di emancipazione dei giovani stati capitalistici. La contraddittorietà della fase imperialista si manifesta nel modo più palese nelle contraddizioni del sistema moderno dei prestiti internazionali. Indispensabili per l'emancipazione degli stati capitalistici in ascesa e, nello stesso tempo, mezzo efficacissimo nelle mani degli stati capitalistici tradizionali per metterli sotto tutela ed esercitare un controllo sulle loro finanze e una pressione sulla loro politica estera, doganale, commerciale. Mezzo indispensabile per aprire nuove sfere di investimento al capitale accumulato di paesi ad antico sviluppo capitalistico e insieme fonte di nuova concorrenza ad essi. Fra il 1830 e il 1860 le costruzioni ferroviarie e i prestiti accordati a tale scopo servirono essenzialmente all'erosione dell'economia naturale e all'espansione dell'economia mercantile semplice. Così le ferrovie nordamericane, costruite mediante capitale europeo, e i prestiti contratti per le ferrovie russe fra il 1860 e il 70. Per contro, la costruzione di ferrovie nell'ultimo ventennio, tanto in Asia quanto in Africa, è servita quasi esclusivamente agli scopi della politica imperialistica, alla monopolizzazione economica e alla sottomissione politica dei paesi arretrati. È il caso delle ferrovie costruite dalla Russia nell'Asia orientale e centrale. L'occupazione militare della Manciuria ad opera della Russia è stata notoriamente preceduta dalla spedizione di truppe per la protezione degli ingegneri che lavoravano alla costruzione della ferrovia mancese. Lo stesso carattere hanno le concessioni ferroviarie russe in Persia, le imprese ferroviarie tedesche nell'Asia Minore e in Mesopotamia, le inglesi e tedesche in Africa. Scopo della produzione capitalistica non è l'uso, il consumo dei prodotti, ma è il plusvalore, l'accumulazione. Il capitale ozioso non trovava possibilità di accumulazione in patria, mancandovi la richiesta di prodotti addizionali, ma all'estero, dove la produzione capitalistica non si è ancora sviluppata, una nuova domanda si è determinata in strati non capitalistici o la si determina con la forza. L'essenziale è che il capitale accumulato nel vecchio paese trovi nel nuovo paese una rinnovata possibilità di produrre plusvalore e di realizzarlo, cioè di continuare l'accumulazione. I nuovi paesi abbracciano estesi territori ad economia naturale, che assumono così il carattere di un'economia mercantile semplice, o ad economia mercantile semplice che si trasforma in senso capitalistico. Le costruzioni ferroviarie e lo sfruttamento delle miniere, specie delle miniere d'oro, caratteristici agli effetti dell'investimento del capitale di vecchi paesi capitalistici in nuovi, hanno in grado eminente la proprietà di promuovere, in rapporti economici finora naturali, un attivo e subitaneo scambio di merci. Entrambi segnano, nella storia economica, le pietre miliari del processo di rapida dissoluzione di antiche formazioni economiche e di strati sociali precapitalistici, di crisi sociali e di sviluppo di rapporti economico-sociali moderni, cioè della produzione mercantile semplice prima e della produzione capitalistica poi. Chi sono dunque questi nuovi consumatori? Chi paga in ultima istanza i prestiti esteri e realizza il plusvalore delle imprese capitalistiche con essi fondate? La classica risposta a questa domanda è data dalla storia dei prestiti internazionali in Egitto. Tre serie di fatti strettamente connessi caratterizzano la storia interna dell'Egitto nella seconda metà del secolo XIX. Investimenti in grande stile di capitali, aumento vertiginoso del debito pubblico, sfacelo dell'economia contadina. In Egitto esistevano fino ai tempi a noi vicini il lavoro servile e, quanto ai rapporti di proprietà del suolo, Bali e Khedive vi esercitavano la più spregiudicata e incontrollata politica di violenza. Ma dovevano essere appunto questi rapporti sociali ed economici primitivi a offrire un terreno straordinariamente fertile alle operazioni del capitale europeo. Dal punto di vista economico, non si trattava dapprima che di creare le condizioni dell'economia monetaria, e a questo pensò lo Stato, con l'impiego diretto della forza. Muhammad Ali, creatore del moderno Egitto, applicò a tale uopo, fin verso il 1840, un metodo di una semplicità patriarcale, quello di far comprare dallo Stato ai fellahin l'intero raccolto annuo, per vendere poi loro a prezzi maggiorati il minimo necessario per la loro esistenza e per le semine. Inoltre importò cottone dall'India, canna da zucchero dall'America, indaco e pepe, e prescrisse ufficialmente ai contadini la quantità da coltivare di ciascuna di queste piante. Il cotone e l'indaco vennero poi dichiarati monopolio del governo e perciò venduti solo a questo, che a sua volta li rivendeva. Con tali metodi fu introdotto in Egitto il commercio. Muhammad Ali provvide però anche ad aumentare la produttività del lavoro. Rimise in funzione vecchi canali, fece scavare pozzi, iniziò soprattutto la grandiosa diga sul Nilo, a Kalyub, che aprì la serie delle grandi imprese capitalistiche in Egitto. Più tardi queste si estesero a quattro grandi settori: l'irrigazione, le vie di comunicazione, la coltivazione del cotone e la produzione dello zucchero. Con la costruzione del canale di Suez, l'Egitto aveva già infilato la testa nel cappio della finanza europea, dal quale non doveva mai più liberarsi. Si mosse per primo il capitale francese, al quale seguì subito dopo il capitale britannico, e la lotta di concorrenza fra i due gruppi si intreccia nel groviglio delle vicende interne dell'Egitto per tutto il successivo ventennio. Le operazioni del capitale francese, cui si deve la costruzione sia della inservibile diga sul Nilo sia del canale di Suez, furono forse i più caratteristici esempi di accumulazione del capitale europeo a spese di rapporti economico-sociali primitivi. Per il beneficio dell'apertura del canale, che doveva distogliere dall'Egitto il commercio Europa-Asia e privare perciò il primo di una sostanziale partecipazione ai suoi utili, il paese si impegnò prima di tutto a fornire a titolo gratuito il lavoro servile di 20.000 contadini comandati all'anno, poi a rilevare il 40% del capitale azionario complessivo della compagnia di Suez. Fu questa la base del gigantesco debito pubblico egiziano, che doveva avere per conseguenza, 20 anni dopo, l'occupazione militare da parte dell'Inghilterra. Le opere irrigue aprirono la via a un'improvvisa trasformazione economica. I tradizionali sakien, cioè le macchine idrauliche azionate dai buoi, di cui nel solo delta ben 50.000 erano in moto per 7 mesi dell'anno, furono sostituiti in parte da enormi pompe a vapore, mentre moderni battelli provvedevano al traffico sul Nilo fra il Cairo e Assuan. Ma il più profondo sconvolgimento dei rapporti economici egiziani fu provocato dalla coltivazione del cotone. Infatti, in seguito alla guerra di secessione americana e alla fame cotoniera inglese, che avevano fatto enormemente salire il prezzo della fibra, anche l'Egitto fu preso dalla febbre della coltivazione del cotone. Tutti si misero a piantar cotone, a cominciare dalla famiglia del viceré. Furti di terre in grande stile, confische, acquisti forzati o semplici rapine ingrossarono rapidamente, in misura enorme, i possedimenti terrieri del viceré. Numerosi villaggi si trasformarono di colpo in proprietà privata regia, senza che nessuno sapesse darne la giustificazione legale, e questo poderoso complesso di terre fu destinato al rapido impianto di piantagioni cotoniere. Ma ciò significava capovolgere l'intera tecnica della tradizionale agricoltura egiziana. La costruzione di dighe per proteggere i campi di cotone dalle regolari piene del Nilo, un'abbondante e pianificata irrigazione artificiale del suolo, un'aratura profonda e continua sconosciuta al fellah, col suo aratro del tempo dei faraoni, e infine un lavoro intensivo al tempo del raccolto, tutto ciò impose alle forze lavoro egiziane una tensione estrema. Ma queste forze lavoro erano costituite dallo stesso contadiname servile di cui lo Stato poteva legalmente disporre in misura illimitata. Per I Fellahin, che già erano stati costretti a lavorare come servi alla costruzione della diga di Kalyub, furono perciò mobilitati alla costruzione di argini, allo scavo di canali, alla piantagione di cotone sulle proprietà del viceré. Il Khedive aveva ora bisogno per i suoi poderi dei 20.000 schiavi che aveva messo a disposizione della Compagnia di Suez, e fu questa la prima scintilla del conflitto col capitale francese. L'arbitrato di Napoleone III assegnò alla compagnia un lauto indennizzo che il Khedive poté accettare tanto più di buon animo, in quanto se ne sarebbe facilmente rivalso sugli stessi Fellahin, la cui forza lavoro era stata all'origine del conflitto. Si passò poi alle opere irrigue, per le quali furono importate dall'Inghilterra e dalla Francia quantità enormi di macchine a vapore, pompe centrifughe e locomobili, centinaia e centinaia di queste emigrarono dalla Gran Bretagna ad Alessandria e di qui furono trasportate per battello, su barche e a dorso di cammello in tutti i punti del paese. Un terzo tipo di macchina di cui l'Egitto sentì improvviso bisogno furono gli apparecchi per la sgranatura del cotone e le presse per il suo imballaggio. Impianti sorsero a decine nelle piccole città del Delta. Grandi patrimoni affluirono nelle banche di Alessandria e del Cairo. Il crack della speculazione cotoniera seguì l'anno dopo, quando per effetto della conclusione della pace negli Stati Uniti il prezzo del cotone cadde in pochi giorni da 27 pence la libra a 15, 12 e infine 6 pence. L'anno successivo Ismail Pascià si lanciò in una nuova speculazione, la produzione di zucchero da canna. Si trattava di far concorrenza agli stati meridionali dell'Unione Americana, che avevano perduto i loro schiavi, col lavoro servile dei fellahin egiziani. Per la seconda volta l'agricoltura egiziana fu rivoluzionata e i capitalisti inglesi e francesi si trovarono un nuovo campo di rapidissima accumulazione. Nel 1868 e 69 furono ordinati 18 giganteschi zuccherifici della capacità di 200.000 chili al giorno ciascuno, cioè di una capacità quadrupla rispetto agli impianti fino allora conosciuti. Ogni 10 chilometri lungo il Nilo doveva sorgerne uno come punto centrale di un distretto di 10 chilometri quadrati che doveva fornirgli la canna. Mentre 100 vecchi aratri a vapore del periodo del cotone giacevano qua e là a pezzi, 100 nuovi ne erano ordinati per la coltivazione della canna da zucchero. Migliaia e migliaia di fellahin furono trasportati nelle piantagioni, mentre altre migliaia erano mobilitati per la costruzione di un nuovo canale. Ben presto sorse il problema dei trasporti. Per trasferire le masse di canne alle fabbriche si dovette provvedere a tambur battente a una rete di ferrovie, di binari trasportabili, di teleferiche, di locomotive. Anche queste poderose ordinazioni furono monopolizzate dal capitale inglese. Ai trasporti provvedevano provvisoriamente 4.000 cammelli, ma la fornitura della quantità necessaria di canna da zucchero si dimostrò impossibile. La maestranza era incapace. Non si poteva pretendere di trasformare di colpo a staffilate in moderni lavoratori industriali i servi della gleba. L'impresa fallì. Molte macchine ordinate non furono mai poste in esercizio. E con la speculazione dello zucchero si chiude nel 1873 il periodo delle grandi imprese capitalistiche dell'Egitto. Chi fornì i capitali per queste imprese? I prestiti esteri. Fu Said Pascià, un anno prima della morte, ad accettare il primo prestito, che ammontava nominalmente a 66 milioni di marchi, ma in realtà, dedotte le provvigioni, eccetera, 50 milioni. Lo lasciò in eredità, insieme col trattato di Suez, che accollava all'Egitto un onere di 340 milioni di marchi, a Ismail, il suo successore. Nel 1864 Ismail Pascià contrasse il suo primo prestito di nominali 114 milioni. Questa somma fu consumata in un anno, 67 milioni dalla Compagnia di Suez a titolo di indennizzo e il resto nei gorghi dell'episodio cotoniero. Nel 1865 la banca anglo-egiziana provvide al primo dei cosiddetti prestiti Daira, a cui le proprietà private del Khedive servirono di garanzia. Nel 1874 si fa il tentativo di lancio di un nuovo prestito su garanzia terriera, 1.000 milioni di marchi contro rendita annua del 9%, che frutta solo 68 milioni. Dalla morte di Said Pascià, il debito pubblico complessivo era salito in 13 anni da 3 milioni di sterline a 94 milioni. Si era alla vigilia del crollo. A prima vista, queste operazioni Sembrano il colmo della follia. Un prestito segue l'altro, gli interessi di vecchi debiti sono coperti da nuovi prestiti, gigantesche ordinazioni all'industria inglese e francese sono pagate con capitali presi a prestito a inglesi e francesi. In realtà, pur fra le generali scrollate di capo e i singhiozzi di tutta Europa sul malgoverno di Ismail Pascià, il capitale europeo fece in Egitto favolosi, incredibili affari, una ripetizione moderna delle bibliche vacche grasse nel corso storico mondiale del capitalismo. Anzitutto ogni prestito rappresentava una speculazione in cui da un quinto a un terzo e più della somma nominalmente prestava rimaneva appiccicata alle mani dei banchieri europei. Gli interessi usurari dovevano comunque, bene o male, essere pagati. Da dove veniva il denaro a tale scopo? La loro sorgente doveva trovarsi nello stesso Egitto e questa sorgente erano i fellahin, i contadini egiziani. Furono questi, in ultima analisi, a fornire gli elementi essenziali delle grandiose imprese capitalistiche. La terra in primo luogo, giacché i possedimenti privati del Khedive, in brevissimo tempo gonfiatisi a dismisura e costituenti la base dei piani di irrigazione e delle speculazioni sul cotone e sullo zucchero, erano stati costituiti mediante la rapina e la violenza con le terre di infiniti villaggi contadini. La forza lavoro in secondo luogo, che i contadini offrirono gratis e quindi a spese dell'economia agricola, e che fu la base dei miracoli tecnici creati da ingegneri europei e da macchine europee nelle opere irrigue, nei mezzi di comunicazione, nell'agricoltura e nell'industria dell'Egitto. Nella costruzione della diga sul Nilo a Kalyub, come del canale di Suez, delle ferrovie, come degli argini, nelle piantagioni di cotone, come negli zuccherifici, lavorarono legioni e legioni di servi della gleba che, secondo il bisogno, erano spostati dall'uno all'altro lavoro e sottoposti al più feroce sfruttamento. E se da una parte al loro impiego, ai fini del capitalismo moderno, dovevano opporsi limiti tecnici insormontabili, dall'altra questo svantaggio era però largamente compensato dall'illimitato controllo sulle masse, dalla durata dello sfruttamento, dalle condizioni di vita e di lavoro della manodopera di cui il capitale disponeva. Ma l'economia contadina fornì non soltanto terra e forza lavoro, fornì anche denaro. Servì a questo scopo il sistema fiscale che, sotto la pressione dell'economia capitalistica, applicò le manette ai fellahin. L'imposta fondiaria sulle proprietà contadine salì fino a raggiungere, verso il 1860, l'equivalente di 55 marchi per ettaro, mentre la grande proprietà terriera non ne pagava che 18 e i possedimenti privati della famiglia regnante ne erano esenti. Vi si aggiunsero contributi straordinari, per esempio ai fini della manutenzione delle opere irrigue e perciò a quasi esclusivo vantaggio delle proprietà del viceré. Per ogni pianta di dattero il fellah doveva pagare, per ogni capanna di fango da lui abitata doveva pagare. I fellahin sborsarono sotto Mohammed Ali 50 milioni di marchi, sotto Said 100 milioni, sotto Ismail 163 milioni di marchi. Quanto più aumentava l'indebitamento verso il capitale europeo, tanto più stretti si facevano i giri di vite sull'economia contadina. Nel 1876 la tassa sui datteri fu aumentata ancora. I villaggi cominciarono a spopolarsi, le capanne furono demolite, i campi furono lasciati incolti per sfuggire alle imposte. Interi villaggi si diedero ad abbattere le piante di dattero e fu necessario l'intervento delle truppe per mettere fine alla loro distruzione. Nel 1879 si calcola che 10.000 fellahin a Monte di Siut morissero di fame avendo ammazzato il bestiame per non pagare l'imposta su di esso prelevata. Ai fellah era stata succhiata l'ultima goccia di sangue. Lo Stato egiziano aveva esaurito la sua funzione di sanguisuga al servizio del capitale europeo. Era perciò divenuto superfluo. Il Khedive Ismail fu licenziato. Il capitale poteva procedere alla liquidazione. Quanto più disperata e insolubile diventa la situazione finanziaria, tanto più si avvicina il momento in cui l'intero paese, con le sue forze produttive, dovrà cadere nelle grinfie del capitale europeo. Nell'ottobre 1878 i rappresentanti dei creditori europei sbarcano ad Alessandria. Si istituisce un controllo a due, inglese e francese, delle finanze statali ed è in suo nome che si levano nuovi balzelli e i contadini sono spremuti e fustigati finché gli interessi, il cui servizio era stato sospeso nel 1876, ricominciano ad essere corrisposti. A questo punto, i diritti e le pretese del capitale europeo diventano il centro di gravità della vita economica, la preoccupazione dominante del sistema finanziario egiziano. Viene creato, oltre ad una nuova commissione, un ministero semi-europeo. Le finanze egiziane passano sotto il controllo permanente del capitale europeo nella persona della Commission de la Dette Publique Égyptienne con sede al Cairo. Le proprietà della famiglia vicereale vengono trasformate in demanio pubblico e date in garanzia a creditori europei. La stessa fine fanno i fondi Daira, proprietà personale del Khedive, situati per lo più nell'Alto Egitto. Una rivolta dell'esercito egiziano, ridotto alla fame dal controllo finanziario europeo, mentre i funzionari europei incassano favolosi stipendi, e una rivolta provocata ad arte delle masse stremate di Alessandria offrono il tanto atteso pretesto a un colpo decisivo. Nel 1882 truppe inglesi sbarcano in Egitto per non lasciarlo più e suggellare con la sottomissione del paese la serie di grandiose imprese capitalistiche negli ultimi 20 anni e la liquidazione dell'economia contadina ad opera del capitale europeo. Appare così evidente che la transazione, a prima vista assurda, fra capitale finanziario europeo e capitale industriale europeo, in forza della quale le ordinazioni egiziane erano pagate col capitale prestato e gli interessi di un prestito coperti dal capitale di nuovi prestiti, si fondava in realtà su un rapporto perfettamente razionale e sano, tra virgolette, dal punto di vista dell'accumulazione capitalistica. Questo rapporto si traduce, spogliato di tutti i suoi fronzoli, nel fatto elementare che l'economia contadina egiziana fu divorata in misura imponente dal capitale europeo. Enormi estensioni di terra, innumerevoli forze lavoro e una massa di prodotti del lavoro ceduti allo Stato in pagamento delle imposte furono trasformate, in definitiva, in capitale europeo e accumulate. In questo impetuoso sviluppo economico, realizzato con l'aiuto del capitale europeo, l'Egitto è divenuto proprietà di quest'ultimo. Come in Cina e più di recente in Marocco, in Egitto è così apparso in piena luce come dietro i prestiti internazionali, la costruzione delle ferrovie, le irrigazioni e simili opere civili stia in agguato la lunga mano dell'accumulazione del capitale, e cioè il militarismo. Mentre gli stati orientali compiono con ansia febbrile il loro passaggio dall'economia naturale all'economia mercantile semplice e da questa all'economia capitalistica, il capitale internazionale li divora perché senza venderglisi essi non possono portare a termine la propria rivoluzione interna. Un altro esempio recente di questo fenomeno è offerto dalle iniziative del capitale tedesco nella Turchia asiatica. Già precedentemente il capitale europeo, specialmente inglese, aveva cercato di impadronirsi di questo territorio, posto sull'antichissima via del commercio mondiale fra Europa e Asia. Dopo la costruzione, naturalmente, di tutte quante le ferrovie che attraversano la Turchia, costruite con capitale europeo, lo scambio economico materiale fra i contadini dell'Asia Minore, della Siria e della Mesopotamia e il capitale tedesco si effettua nel modo seguente. Il grano nasce nelle pianure dei vilayet di Konya, Baghdad, Bassora, eccetera, come prodotto d'uso dell'economia contadina primitiva ed emigra nelle mani degli appaltatori d'imposta. È solo qui che il grano diventa merce e come merce denaro, e il denaro passa nelle mani dello Stato. Questo denaro, che non è se non metamorfosi del grano contadino prodotto all'origine non come merce, serve ora in parte a pagare come garanzia statale la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, cioè a realizzare il valore dei mezzi di produzione in essi consumati e il plusvalore estorto nella costruzione come nell'esercizio delle ferrovie medesime ai contadini e proletari asiatici e in parte, poiché nella costruzione delle ferrovie sono impiegati mezzi di produzione prodotti in Germania, il grano dei contadini asiatici, trasformato in denaro, serve anche a realizzare il plusvalore estorto ai proletari tedeschi nella loro produzione. In questa sua funzione, il denaro passa dalle mani dello Stato turco nelle casse della Deutsche Bank per esservi accumulato come plusvalore capitalistico in forma di utili di fondazione, dividendi, interessi nelle tasche dei proprietari della banca, dei loro collaboratori, degli azionisti e clienti della Deutsche Bank e dell'intrico delle sue società affiliate. La serie complicata delle metamorfosi finanziarie si riconduce alla sua forma più semplice e chiara. Il grano dei contadini emigra direttamente nelle mani della Administration de la dette ottomane, cioè della rappresentanza del capitale europeo, e vi diviene, già nella sua forma naturale, utile del capitale tedesco e straniero, in genere, prima ancora di essersi spogliato della sua specifica forma d'uso asiatico-contadina. Realizza il plusvalore capitalistico prima di essere divenuto merce e di aver realizzato il proprio valore come cibo. Lo scambio materiale si compie qui nella sua forma esplicita e senza veli fra capitale europeo e contadiname asiatico, mentre lo Stato turco è ridotto al suo autentico e brutale ruolo di apparato politico per lo sfruttamento intensivo dei suoi stessi contadini a maggior gloria del capitale, tipica funzione di tutti gli Stati orientali nel periodo dell'imperialismo capitalistico. La transazione, che apparentemente sembrava un'assurda tautologia, un pagar merci tedesche con capitale tedesco in Asia, in cui i bravi tedeschi cedono agli scaltri turchi solo l'uso delle grandi opere civili, è in fondo uno scambio fra il capitale tedesco e le classi contadine asiatiche, uno scambio eseguito coi mezzi di coercizione dello Stato. Risultato della transazione è da una parte la crescente accumulazione di capitale e una sempre più vasta sfera di interessi come trampolino all'ulteriore espansione politica ed economica del capitale tedesco in Turchia, dall'altra ferrovie e traffico sulla base della rapida decomposizione, della rovina e del dissanguamento dei contadini asiatici ad opera dello Stato turco e della crescente dipendenza finanziaria e politica di questo dal capitale europeo.